Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'inchiesta che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi è un caso politico, come prevedibile. Boom, salta tutto, dice Grillo, i 5 Stelle verso la mozione di sfiducia al governo. Le prime ammissioni dall'Egitto nelle pagine consegnate ai magistrati italiani, secondo quanto riferisce la stampa locale. Giulio Regeni era controllato dai servizi segreti del Cairo, dossier sui suoi incontri con lavoratori e sindacalisti. In Libia la guida del governo ribelle lascia Tripoli e va a Misurata, mentre 10 città annunciano sostegno a Sarraj, il premier sostenuto dalle Nazioni Unite. Cresce il tasso di disoccupazione, scende il numero di occupati, meno 97.000 unità in febbraio. Poletti dice ci sono ancora incertezze sul mercato del lavoro, ma il trend è positivo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere qualcosa di più articolato, e poi per aggiornamenti che arrivano anche nell'arco della mattinata, anche con qualche indicazione sui temi, abbiamo aperto il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque torniamo sulla politica che si incrocia in queste ore, come sapete, con la cronaca giudiziaria e sulle dimissioni di ieri del ministro alle attività produttive Federica Guidi. Per riassumere brevemente la vicenda, ieri vi abbiamo raccontato che è stata aperta un'inchiesta che coinvolge e che riguarda il giacimento petrolifero di Tempa Rossa. Dove si trova? Si trova in Basilicata, in Val d'Agri, è l'area petrolifera più importante sulla terraferma europea. Il tema è un emendamento, sia una proposta di modifica alla legge, in particolare quella di stabilità del 2014. In questo emendamento di fatto si sbloccano i lavori per un investimento che vale 1,6 miliardi da parte di 3 compagnie petrolifere. Al centro di tutto ci sono le telefonate tra il ministro Federica Guidi e il suo compagno, che dovrebbe ricevere un subappalto da una di queste compagnie per 2 milioni e mezzo di euro. In queste telefonate Guidi rassicura sul fatto che l'emendamento, se ci sarà l'accordo di Maria Elena Boschi, passerà. Rese pubbliche le telefonate, Guidi ha ritenuto opportuno dimettersi. Ripartiamo dunque da qua e dal fronte politico con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il Movimento 5 Stelle passa all'attacco. Non bastano le dimissioni del ministro Federica Guidi, ma bisogna che tutto il governo si dimetta e prepara una mozione di sfiducia per l'intero esecutivo. Maria Elena Boschi, Matteo Renzi, tutto il governo, i parlamentari PD e Nuovo Centrodestra sapevano e quindi si devono dimettere in massa. Questo quanto scritto sul blog di Beppe Grillo. Le dimissioni del ministro Guidi sono una missione di colpa. La misura è colma. Che altro deve succedere perché si schiodino dalla poltrona? I cittadini vengono prima dei papà banchieri indagati e dei compagni petrolieri. Basta battute, basta balle. Diversa la posizione di Forza Italia, la Guidi è sempre stata indicata come un ministro vicino a Silvio Berlusconi, anzi il ministro del patto del Nazareno. Renato Brunetta è cauto, siamo e restiamo garantisti, dice. La notizia vera è la certificazione di come la legge di stabilità, che è la spina dorsale della politica del governo, abbia come logica suprema non il bene del paese ma quello degli amici degli amici. Per Sinistra Italiana invece c'è il conflitto di interessi, è brutale. Il PD rappresenta sempre più i poteri forti, questo è il parere del candidato sindaco di Roma Stefano Fassina. Ieri l'accettazione delle dimissioni da parte del premier Matteo Renzi, dettata, ha scritto il premier, da ragioni di opportunità che condivido. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Il fronte delle indagini. Le dimissioni di un ministro, 6 arresti per traffico e smaltimento di rifiuti, 60 indagati, sospensione della produzione di petrolio Eni in Val d'Agri. Parte dalla Procura di Potenza un'inchiesta che sta colpendo interessi economici e rapporti politici in tutta Italia. 2 filoni d'inchiesta. Il primo porta nel cuore della Basilicata al centro olio in Val d'Agri a Viggiano dell'Eni, dove i carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno documentato un traffico di smaltimento illecito di rifiuti. L'altro poco distante a Corleto Perticara, dove c'è il colosso francese Total Tempa Rossa. Questo filone che è coinvolto Gianluca Gemelli, compagno di Federica Guidi, costretta a rassegnare le dimissioni per un'intercettazione finita agli atti in cui il ministro garantiva l'approvazione di un emendamento alla legge di stabilità, misura che favoriva gli interessi economici delle imprese e del suo convivente. Se è d'accordo anche Maria Elena, dovremo riuscire a inserire l'emendamento, così scriveva la Guidi al suo compagno a fine 2014. L'ex ministro non è iscritta agli atti, Gemelli risulta indagato. Capo di imputazione per lui è il traffico di influenze illecite. Nel nell'ordinanza del GIP si legge che Gemelli, sfruttando la relazione con la ministra, si faceva indebitamente promettere e riusciva ad ottenere dal dirigente della Total Giuseppe Cobianchi, anche lui indagato, le qualifiche necessarie per partecipare ai lavori di costruzione dell'impianto. In questo filone d'inchiesta sono 20 gli indagati, mentre è stato arrestato Rosario Vicino, ex sindaco PD di Corleto Perticara. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E su questa vicenda, anche sulla figura di questo sindaco del paesino nel quale si concentra tutto, torneremo più avanti, lo faremo con un collega di un quotidiano locale che si è occupato di queste cose, perché da quello che sta emergendo è una figura piuttosto interessante, che ordinava assunzioni anche agli stessi vertici delle compagnie petrolifere che operano nella zona. Cambiamo decisamente argomento intanto e ci occupiamo dei dati sul lavoro, che segnalano una crescita del tasso generale di disoccupazione, una diminuzione di quello giovanile, ma non solo questo. Sentiamo. Dati provvisori, quelli relativi a febbraio e diffusi dall'Istat, ma che indicano un mercato del lavoro ancora molto in evoluzione. La disoccupazione torna allora a salire rispetto al mese precedente, 11,7% più 0,1%, con il numero dei disoccupati che aumenta di 7.000 unità e che penalizza più gli uomini che le donne. Il fenomeno però non riguarda la fascia d'età tra 15 e 24 anni. La disoccupazione giovanile scende infatti dello 0,1%, arrivando a 39,1%. Il dato più interessante di febbraio riguarda gli occupati. Dopo la crescita di gennaio, la stima di febbraio segna un meno 0,4 con la perdita netta di 97.000 unità. Il saldo nell'anno solare è comunque positivo, con oltre 200.000 dipendenti in più a tempo indeterminato. Ma è proprio questa tipologia di contratto a soffrire maggiormente a febbraio, complice il taglio degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni previsto dalla manovra di bilancio per il 2016. Si tratta del primo calo dallo scorso anno, ricorda l'Istat. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso e torturato, anzi torturato e ucciso al Cairo, ricercatore italiano di 28 anni. Sembrano arrivare finalmente notizie un po' più credibili dal Cairo, diffuse dalla stampa locale. Sentiamo. I servizi segreti egiziani seguivano Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio e ritrovato senza vita il 3 febbraio scorso al Cairo. Nel dossier che una delegazione della sicurezza egiziana consegnerà martedì 5 aprile al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, ci sono anche i risultati di indagini compiute da apparati egiziani sui numerosi incontri tra Giulio Regeni, ambulanti e sindacalisti al Cairo. A rivelarlo è Al-Akhbar, uno dei maggiori quotidiani egiziani, il quale precisa che il dossier comprende molti documenti e informazioni importanti, tra cui foto e tutte le indagini su Regeni dal suo arrivo al Cairo fino alla sua scomparsa. Sino ad oggi le autorità del Cairo hanno sempre mantenuto i servizi segreti al di fuori di tutte le possibili ricostruzioni e motivazioni dell'omicidio di Giulio Regeni. Ora, se quanto sostiene il quotidiano Al-Akhbar fosse confermato, sarebbe l'ammissione di un coinvolgimento dell'intelligence egiziana. Ci fermeremo solo davanti alla verità, aveva ribadito nei giorni scorsi il premier Matteo Renzi, e per fare definitivamente luce sull'omicidio del giovane ricercatore, l'autorità giudiziaria italiana spera ora proprio nel dossier, nel quale ci sono anche le deposizioni dettagliate dei suoi amici sugli spostamenti del ragazzo nei suoi ultimi giorni al Cairo. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. In Libia adesso, dove la situazione dopo l'arrivo a Tripoli del premier designato e sostenuto dalle Nazioni Unite continua a essere piuttosto fluida, come si dice in gergo. La strada non è ancora totalmente spianata per l'esecutivo di unità nazionale in Libia di Fayyad al-Sarraj, sostenuto dall'ONU, ma sicuramente le notizie che stanno arrivando nelle ultime ore lasciano ben sperare per il governo voluto dalla comunità internazionale. Khalifa Guel, il premier del governo di Tripoli ribelle, mai riconosciuto dalla comunità internazionale, ha lasciato la capitale libica ed è tornato a Misurata, scrive Libia Herald. E ancora i sindaci di 10 città hanno rotto l'alleanza con il congresso di Tripoli, fra queste città anche Zawiya e Sabatra. La decisione del ribelle Guel di andarsene è arrivata dopo che il consiglio degli anziani di Misurata ha minacciato di destituire lo stesso Guel. Gli hanno detto che era finita, doveva lasciare, se non se ne fosse andato lo avrebbero rimosso, afferma una fonte al quotidiano libico. Il nuovo premier Sarraj resta al momento nella base navale in cui ha stabilito il suo quartier generale, ma ha iniziato a ricevere i dignitari tripolini che iniziano a presentarsi al nuovo potere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di pochi istanti fa. C'è paura, c'è stata paura nel centro di Parigi per una violenta esplosione che ha fatto parzialmente crollare un edificio nella Rue du Cherche Midi. La polizia ha confermato pochi istanti fa che si tratta di una fuga di gas e un incidente domestico. La deflagrazione ha provocato un incendio. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime. Intanto a Bruxelles si stringono i cordoni della sicurezza invece in merito alle questioni che riguardano il terrorismo. 10 giorni dopo gli attacchi di Bruxelles proseguono indagini serrate sul fronte della sicurezza, mentre dalla procura belga arriva il via libera alla richiesta di estradizione della Francia di Salah Abdeslam, il principale sospettato degli attacchi terroristici del novembre scorso a Parigi. Tempi strettissimi, entro 10 giorni, salvo circostanze eccezionali, dice il ministro della giustizia francese. In base alla legge belga, il consenso del sospetto a viaggiare per affrontare la giustizia francese è ormai irrevocabile. Salah Abdeslam, il 10° uomo delle stragi di Parigi, vuole essere estradato e collaborare con le autorità francesi. La Francia aveva presentato istanza per l'estradizione dopo che le autorità belghe lo avevano arrestato prima degli attentati all'aeroporto e alla metropolitana di Bruxelles, per cui non si fermano i controlli a tappeto di potenziali infiltrati. Le domande di 37 richiedenti asilo in Belgio sono oggetto di uno screening approfondito da parte delle autorità belghe, in quanto sono sospettati di avere legami con l'ISIS, ma nessuno di questi dovrebbe rappresentare una minaccia diretta. Secondo il ministro dell'interno belga, è necessario rafforzare la sicurezza delle centrali nucleari. Intanto ci sono ricadute sul turismo, hotel e monumenti deserti. L'Atomium, il monumento simbolo della città, ha visto il 90% delle visite cancellate dal giorno degli attacchi. E intanto il paese è spaccato, vietata la manifestazione anti-Islam in tutta la regione, organizzata dal movimento estremista francese. E secondo un sondaggio, un belga su due è a favore della chiusura delle frontiere ai rifugiati per evitare altri attacchi terroristici. L'altro 50% della popolazione però lo ritiene inutile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo a parlare di terrorismo però con una piccola storia, una storia che riguarda la ex moglie dell'autoproclamato califfo al-Baghdadi. A questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. La rivoluzione spesso porta un nome di donna. È accaduto che l'ex moglie del leader dell'ISIS, Baghdadi, abbia rotto l'omertà durata molti anni e ha raccontato la sua verità. In sostanza ha votato il sacco, smarcandosi in modo netto dalle idee e dai comportamenti dell'ex marito, pur facendo parte di quel mondo. Lei si chiama Saya al-Dulaimi. Al quotidiano svedese Expressen non solo ha smentito di essere una terrorista, ma ha espresso la seria intenzione di voler vivere libera in Europa. La donna ha raccontato che al momento delle nozze, nel 2008, pensava di aver sposato una persona normale, un docente universitario. Poi si è invece accorta che Baghdadi è l'uomo più pericoloso del mondo e ha detto: era una persona enigmatica, non si poteva avere con lui una discussione, una conversazione normale, dava solo ordini, niente di più. Dalla relazione con Baghdadi, Saya ha avuto una figlia che oggi ha 7 anni. Ha lasciato l'emiro, si è risposata con un palestinese da cui ha avuto un altro figlio. Per un mondo chiuso e impenetrabile come quello del terrorismo jihadista, si tratta certamente di un cambio di passo. Chissà quante altre donne potrebbero nel futuro compiere un salto epocale come quello di Saya. E ritorniamo adesso, dopo l'inchiesta del nostro Daniele Biacchessi, alle cose che riguardano il Vaticano e il Cardinal Tarcisio Bertone e appunto l'indagine aperta dall'autorità giudiziaria vaticana. Sentiamo. Era stato l'allora cardinale Ratzinger a denunciare durante la messa, proeligendo pontefice, prima di entrare nel conclave che lo avrebbe eletto papa, la sporcizia che c'era nella Chiesa. Una denuncia che inaugurò un percorso inarrestabile, una nuova era nella gestione delle vicende oltre Tevere. Un percorso condiviso, fin dall'inizio, dal suo successore, che da subito ha voluto che la riforma della Curia diventasse uno dei capisaldi del suo pontificato. Una Chiesa a servizio dei poveri, senza privilegi, che lotti contro la corruzione e che sia trasparente. Un manifesto, quello di Francesco, anticipato dalla stessa scelta del nome. E alla luce di questo contesto che va letta l'inchiesta vaticana che vede indagati Giuseppe Profiti e Massimo Spina per i lavori di ristrutturazione dell'ormai famoso attico di Bertone. Il cardinale non è tra gli indagati, ma ha rivelato l'Espresso avrebbe saputo tutto fin dall'inizio. Un'inchiesta delicatissima che rischia ora di coinvolgere altri prelati e laici di spicco, perché non ci sono privilegiati nessun figlio di papà, avvertì Francesco tornando dal viaggio in Terra Santa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere questa prima parte abbiamo in studio con noi Carlo Genta per fare un punto un po' su questo fine settimana di campionato, dove sicuramente la grande attesa è per il derby di Roma, che sarà a spalti semivuoti, ma ovviamente c'è anche altro, no? Sì, certo, grande attesa da parte dell'Italia del calcio, non di Roma, sarà il derby più disertato di sempre da parte degli spettatori, in una situazione surreale. Si gioca comunque domenica pomeriggio alle 15 e i biglietti venduti sono davvero un'inezia rispetto alle abitudini romane. Il programma si apre con Juventus-Empoli che si gioca domani, una Juventus dai tanti assenti tra infortunati e squalificati. Tra l'altro ha parlato Allegri dicendo che Dybala probabilmente non sarà della partita, dovrebbe giocare invece a Rugani. Insomma, una Juventus che va con una formazione rimaneggiata contro l'Empoli in casa, però non riesco ad immaginare grandi scossoni. Potrebbe esserci un'assenza importante anche nel Napoli, che gioca domenica alle 12:30 a Udine. In porta potrebbe non esserci Pepe Reina, al suo posto Gabriel. Difficile immaginare però in questo weekend grandi scosse in vetta alla classifica. Chiuderà il programma poi l'Inter con il Torino in casa domenica sera, c'è un posticipo Bologna-Verona lunedì alle 20:45. Comunque immagino ancora un turno interlocutorio, però sappiamo come dopo le nazionali, tra jet lag ed acciacchi, le sorprese possano essere dietro l'angolo, Simone. Allora Carlo, grazie per questo aggiornamento. Noi ti ritroviamo come sempre alle 14 dopo il GR d'Europa 24 con tutti convocati. Buongiorno a Francesco Valli. Buongiorno. E benvenuto ai nostri microfoni. Francesco Valli è il figlio di una donna che è una delle vittime di Fausta Bonini. Fausta Bonini, la vicenda ve l'abbiamo raccontata ieri, l'infermiera di 55 anni arrestata a Piombino per aver ucciso 13 pazienti. E Francesco Valli, tra l'altro, ha presentato una protesta all'ospedale prima che emergesse tutto, perché aveva notato qualcosa di strano. Parleremo con lui subito dopo il traffico e poi parleremo anche con la direttrice dell'ASL di zona, perché sta emergendo un tema. Il tema è se tutto questo si potesse essere scoperto prima, soprattutto per la causa, per la quantità di decessi sospetti che ci sono stati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: arrivano le prime ammissioni dall'Egitto nelle pagine consegnate ai magistrati italiani, almeno stando alla stampa locale. Giulio Regeni era controllato dai servizi segreti del Cairo, dossier ci sono sui suoi incontri con lavoratori e sindacalisti. L'inchiesta che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi è un caso politico. Boom, salta tutto, dice Grillo, e i 5 Stelle vanno verso una mozione di sfiducia al governo. In Libia la guida del governo ribelle lascia Tripoli e va a Misurata, mentre 10 città annunciano sostegno a Serraj, il premier sostenuto dalle Nazioni Unite. I dati sulla disoccupazione non particolarmente buoni, perché cresce il tasso anche se scende il numero di occupati, meno 97.000 unità in febbraio. Poletti dice ci sono ancora incertezze sul mercato del lavoro, ma il trend è positivo. E dunque adesso torniamo alla vicenda di cronaca, della quale già vi parlavamo ieri in apertura e sulla quale appunto vogliamo tornare oggi per cercare di approfondire qualcosa di più, e tra un attimo lo faremo anche appunto, come si diceva, con la direttrice della ASL locale per capire se c'era qualcosa che si potesse prevenire. Ma appunto vogliamo iniziare con una storia, e lo facciamo, come già vi dicevamo prima del traffico, ospitando Francesco Valli, la cui madre è morta, è stata sostanzialmente uccisa secondo l'ipotesi accusatoria da questa infermiera di 55 anni che ieri è stata arrestata. Allora Valli, le chiederei di iniziare a raccontarci che cosa è successo che l'ha insospettita. È stata un'iniezione data molto e alla svelta, molto rapida, no, classico, cioè quando piano, cioè piano piano, molto rapida. Quindi è arrivata e ha fatto questa iniezione molto rapida. Mentre lei era nella stanza con sua madre. Diamine. Era là nella stanza con sua madre e lei l'ha vista e le ha parlato a questa persona. Che cosa le ha detto? No, lei ha detto ora e dormirai. Cioè, così rompi le scatole, insomma. Così ha detto, cioè ora dormirai così non rompi le scatole, così. No, ora dormirai, ecco. Però era, cioè, da quello che ho capito io, era almeno si, cioè, non rompi più, questo e lo deduco io. Questo l'atteggiamento che lei vedeva, sì, evidentemente. Molto, perché era molto ignorante. Cioè, sì. Non era per un rapporto, cioè noi andiamo lì solo per assistere, cioè, i nostri cari. Sì, cioè, certo. Cioè, vogliamo anche un po' di cortesia, cioè, diciamo, è stata molto scortese in sostanza, molto, da quello che ci sta dicendo lei. Molto scortese. Allora, a quel punto lei si è spostato ed è andato da un medico, no? No. Che cosa, cioè, è successo? A me mi ha buttato fuori perché ero fuori passo e sono uscito. Sì. Cioè, perché lì c'è l'uniosa e di buono che c'è orario. Sì. Ti mandano via. Sono uscito. Sì. Sono venuto a casa, dopo 20 minuti mi hanno richiamato e mi hanno detto che la mia mamma era molto peggiorata. Tacchete, e mi hanno attaccato. Sì. Io non ci ho capito niente, sono corso in ospedale, naturalmente. Sì. Mi hanno aperto dopo il terzo squillo, sì, e mi hanno detto in una maniera papale, abbiamo fatto di tutto, però sua madre è morta. Io per 40 minuti non ho visto nessuno. Ascolti, e poi è riuscito a parlare col medico, immagino, a quel punto. No. Siamo stati altri 20 minuti con due medici a due metri, non mi hanno detto niente. Né bau né au né au. Io ho saputo di cosa è morta mia madre il giorno 21 alle 13, perché mi ha convocato il primario Cordoni. E mi ha detto che era morta, che era stata intubata alle 17:54, che si era un pochino. Sì. E a quel punto, mi scusi, lei ha espresso al primario i suoi dubbi su quell'iniezione o no? Questo non lo... Gli ha detto, guardi, subito prima che la intubaste a mia madre. No. Cioè, prima alle 7:20, sì, gli hanno dato questo calmante. Sì. Così era il coso, come si chiama? Sì, così quello che le ha detto l'infermiera, certo. Sì. E poi, alle 8 dice che è deceduta, per me era una cosa chiusa. Però il modo in cui si sono comportati i medici, che non mi hanno detto niente, l'ha un po' fatta insospettire, come dire. Sì. Insomma. Poi a me, e mi dicevano che era cascato un fulmine, cioè io per me è algebra, cioè io avevo letto, certo, e ho fatto tutto quello. Sì. Cioè, che la mia povera mamma mi aveva chiesto. Sì. Il 21 vengo chiamato dai NAS. E i quali le dicono, guardi. No. A me mi comano per il 22 mattina. Ci vado con mio figlio. Perché volevano approfondire il mio. Diciamo così. Non era una denuncia, era solo Una lettera, una richiesta di informazioni. Allora, abbiamo chiara la sua storia, che cosa è successo in quella stanza. Intanto io la ringrazio, Francesco Valli, e voglio salutare Maria Teresa De Lauretis, che è della USL, che ha la competenza su quell'ospedale, sull'ospedale di Piombino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E, tra l'altro, il decesso di questa signora risale, se non erro, al 9 agosto del 2015, quindi il penultimo di questi decessi. E qua mi sembra che si apre il tema, perché ieri ne abbiamo già parlato. L'ospedale ha collaborato, chiaramente, appena si è accorto che c'era qualche numero che non tornava nel numero di vittime che ci sono state, nel numero di morti che ci sono stati rispetto a quella che è la normale media di un ospedale, per quanto dolorosa, ha detto: vabbè, parliamo con l'autorità giudiziaria perché c'è qualcosa che non funziona. E poi a un certo punto, tra l'altro, è stata anche spostata questa infermiera. E però la sensazione sottotraccia che sta girando è che forse si poteva notare qualcosa prima. Guardi, innanzitutto la puntualizzazione: non è che tutto è iniziato da una valutazione del numero dei decessi, perché in realtà il numero è sempre stato, una terapia intensiva, nelle percentuali tra 17 e 20% che è normalmente le terapie intensive. Il sospetto è nato da un caso in particolare, ho avuto modo appunto anche di dirlo ieri, cioè c'è stato un caso il 9 gennaio del 2015 di una persona che era ricoverata per problemi cardiologici e improvvisamente ha cominciato a stare molto male, a avere una forte emorragia, e hanno fatto l'esame, hanno visto che il sangue non coagulava più, e quindi hanno provato innanzitutto a ricoagulare, non ce l'hanno fatta, questa donna è morta. Da questo caso allora ha posto, non tornava al quadro clinico insomma di questo decesso. E quindi è stato fatto un approfondimento ulteriore, perché a livello di ospedale di Piombino l'approfondimento laboratoristico diceva: il sangue non coagula. Le cause possono essere infinite, perché è una tematica molto complessa, quella della coagulazione, e quindi a questo punto facciamo all'esame di secondo livello all'ospedale di Careggi. Sì. È stato pensato e mandato. Sì. Tra l'altro, allora, pensando che potesse essere una reazione avversa al farmaco, che potesse essere qualcosa di particolare che era successo su questa paziente, eccetera, eccetera. Dai risultati poi degli esami di Careggi è venuto fuori che era presente un antigene che dimostra che c'era stata una eccessiva somministrazione di Marina. Mi scusi, e qua in che data siamo? Ce la ripete, per gentilezza. Siamo a fine marzo. Fine marzo di questa, del 2015. La prima fase della riflessione era ancora una fase che pensava potesse essere appunto una reazione avversa al farmaco di qualche tipo, eccetera, eccetera. Questo esame ancora dà qualche dubbio, tant'è vero che c'è una commissione che ci ragiona. C'è un altro caso a fine marzo. Sì. E a questo punto, riflessioni ulteriori, c'è un gruppo di riflessione, e viene fatto 12 maggio la segnalazione NAS. Sì. Questa è la storia, diciamo così. Ecco, cosa volevo dire. La morte della signora risale al 9 agosto. Esatto, sì, guardi. Allora, dopo questi due casi viene fatta la riflessione di guardare indietro, quindi non è il numero che porta. A questo punto dice: ma quante persone sono morte per mancata coagulazione del sangue? E vengono fuori i casi precedenti, l'analisi, la denuncia in AS 12. A questo punto però noi sappiamo o temiamo che ci sia un problema di qualcuno che somministra, ma non abbiamo la più pallida idea di chi possa essere, né noi né in AS, perché ci sono 18 infermieri in servizio, 10 medici, e poi c'è il personale ausiliario e quant'altro. Quindi inizia una fase in collaborazione. Ma mi scusi, ci chiede un ascoltatore, questo è un punto interessante, ma non c'è nessuno che controlla all'interno dell'ospedale chi prende un determinato farmaco? Intendo questo, degli infermieri preleva l'eparina, appunto? Certo che viene controllato, ma questo non risulta a noi, risulta registrata nessun prelievo di eparina né nessuna somministrazione di eparina, perché non era nella terapia, tra l'altro, quindi non la poteva prendere. Quindi da dove sia venuta questa eparina, non dai nostri quindi teoricamente nei vostri registri c'è quanta eparina c'è, quanta ne viene presa. Certo, è anche un farmaco soggetto a registrazione complessa, mi dicono, che ha delle caratteristiche particolari. E quindi a questo punto inizia il periodo peggiore da un certo punto di vista, perché i NAS giustamente, perché il problema è... Iniziano a controllare, si inizia a controllare, inizia a esserci immagino anche un giro di sospetti all'interno dell'ospedale tra l'uno e l'altro degli infermieri, sì, coi medici o no? Forse, non lo so, io questo, il clima interno sicuramente non era un clima particolarmente sereno in quei giorni. E quindi il servizio continua regolarmente, le due infermiere in turno, il giro eccetera eccetera, e piano piano si vanno a incrociare i dati con le presenze, quello che ha fatto. Mi dice dal momento nel quale avete capito che c'era un collegamento tra l'eparina e i morti, quanto ci si è messo a incrociare i dati? Perché questo mi sembra lo snodo importante, insomma. Poi è chiaro, ma l'incrocio dei dati è stato fatto, l'abbiamo fatto in parte noi circa un mese prima di fare la denuncia, cioè a cercare i dati dei precedenti, e poi dopo un mese abbiamo fatto la denuncia. Poi hanno cominciato a questo punto le autorità inquirenti con strumenti maggiori a incrociare, prendere, hanno fatto anche altre cose, controlli telefonici, non lo so, è iniziata l'indagine vera l'indagine vera e propria. Strumenti propri loro. Va bene, allora, e poi appunto il 18 agosto, perché negli altri casi non c'è la mai stata nessuna io la ringrazio, a questo punto dobbiamo chiudere, La ringrazio per essere stata con noi, quindi non abbiamo chiarezza a questo punto in effetti su quali se forse due o tre morti si potessero evitare con un incrocio di dati più rapido. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle borse. Qualcuno ci chiede: parlate il ministro Guidi, non vi fermate sull'infermiera killer, non vi preoccupate, parleremo di tutta la vicenda che riguarda l'inchiesta subito dopo una pausa per la borsa, e come al solito ci ritroviamo dopo nella seconda parte della trasmissione. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. L'inchiesta che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi è un caso politico. Boom, salta tutto, dice Grillo. I 5 Stelle verso la mozione di sfiducia al governo e si lavora una mozione delle opposizioni, dice Brunetta di Forza Italia. Le prime ammissioni dell'Egitto nelle pagine consegnate ai magistrati italiani. Giulio Regeni era controllato dai servizi del Cairo. In Libia la guida del governo ribelle lascia Tripoli e va misurata. 10 città annunciano sostegno a Serraj, il premier sostenuto dalle Nazioni Unite. Cresce il tasso di disoccupazione, scende il numero di occupati, meno 97.000 unità in febbraio. Poletti dice ci sono ancora incertezze sul mercato del lavoro, ma il trend è positivo. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come si diceva in questa seconda parte, torniamo sull'inchiesta che ha portato alle dimissioni del ministro alle attività produttive, Federica Guidi, un'inchiesta che ruota intorno al giacimento petrolifero e di gas, anche non solamente di petrolio, di Tempa Rossa. Si trova in Basilicata e risulta essere tra l'altro l'area petrolifera più importante sulla terraferma europea. Molti dettagli tra l'altro li trovate sul Sole 24 Ore di oggi, in un bel pezzo di Jacopo Giliberto, nel quale si racconta che è un investimento che vale 1,6 miliardi, 1 miliardo e 600 milioni da parte di tre compagnie petrolifere. Al centro di tutto ci sono le telefonate, lo ricordiamo ancora una volta, per ricostruire una vicenda che può apparire complessa, tra il ministro e il suo compagno, che dovrebbe ricevere un subappalto da una di queste compagnie petrolifere. Si parla di, i due parlano al telefono, di un emendamento poi inserito nella legge di stabilità, uscito dallo sblocca Italia e rientrato nella legge di stabilità per sbloccare proprio i lavori per quanto riguarda questo giacimento petrolifero e le opere connesse, tra cui alcune anche a Taranto e quindi in Puglia, non solo in Basilicata. Ripartiamo da qua e ripartiamo dall'inchiesta con Eugenio Curia, che è un giornalista del Quotidiano del Sud, edizione della Basilicata. Eugenio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra di aver capito tra l'altro che i filoni di inchiesta sono due, cioè quello che più direttamente ha coinvolto il ministro, ma ce n'è anche un altro, no? Sì, un altro altrettanto, diciamo, interessante, ecco, dal punto di vista giornalistico, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica e dell'impatto. Parlavi sì di Corleto Pesticara, ma in realtà anche a Viggiano c'è un grandissimo centro oli, di cui tra l'altro ieri l'ENI nella nota ha fornito qualche numero, sono numeri abbastanza importanti, cioè 75.000 barili al giorno. Lì ecco, quel filone, quel secondo filone altrettanto corposo, parliamo di ordinanze che insomma superano le 800 pagine per ciascun filone, questo secondo filone su Viggiano riguarda più l'aspetto ambientale, mentre il primo, quello a cui facevi cenno tu prima, sì, è appunto più una cosa politica che ha intrecci, ecco, ha avuto una ricaduta grossissima, un impatto grossissimo dal punto di vista politico, insomma. Esatto, sì. Esatto. Allora, questi sono i due filoni di inchiesta. Nel filone di inchiesta, diciamo più relativo per così dire al ministro, e che riguarda e che sfiora il ministro, che in realtà non è indagata, chiariamolo, è indagato il compagno Gemelli, rientra anche una figura interessante, che è quella del sindaco del paese, no? Sì, sindaco del paese. Noi oggi in un titolo abbiamo parlato di protocollo vicino, dove per vicino appunto si intende l'ex sindaco Rosaria Vicino del Partito Democratico. Le accuse nei suoi confronti sono di corruzione, peculato e voto di scambio. Sarebbe appunto il gancio locale è il perno attorno al quale poi si sarebbero mossi, ecco, secondo l'accusa, gli interessi imprenditoriali in questo nuovo sito. Se tra l'altro ci sono dei racconti che abbiamo oggi dai giornali che voi conoscete bene su questo personaggio, sul sindaco, che sono affascinanti per così dire, no? Cioè ci sono intercettazioni e telefonate nelle quali chiede esplicitamente delle assunzioni di singole persone decise da lei. Sì. Si va, ecco, siccome noi siamo una testata interregionale, quindi ci sono anche ricadute, ad esempio, in Calabria, ecco, in particolare, rispetto a quello che dicevi tu, c'è un filone che interessa una cooperativa di servizi collegata a giudicataria di alcuni servizi di mensa e pulizia, sempre concessi alla Total, che è una delle tre società a cui facevi riferimento tu prima. E tra le cose simpatiche c'è appunto il fatto che la Vicino segnalasse persino il fornitore del pane di fiducia da cui rifornisse, oltre naturalmente a una serie di nominativi di persone da assumere. Ecco, anche di questo c'è una lunghissima traccia nelle carte della procura di Potenza, quindi sì, questo è il quadro sul sindaco. Eugenio, mi sembra di capire che ci possano essere problemi a questo punto, addirittura per la partenza, perché poi i lavori in realtà là a Tempa Rossa sono cominciati, però no? Indubbiamente è stato un ciclone di cui anche l'interessamento di testate importanti su scala nazionale come la vostra, insomma, dimostrano l'importanza, per cui l'impatto sicuramente c'è. Ieri il procuratore nazionale antimafia Roberti ha specificato in conferenza stampa che naturalmente non bisogna parlare di giustizia orologeria, ma in ogni caso, anche da quello che vedo oggi, il dibattito si sta spostando oltre che sul governo, sulla data referendaria che si avvicina, questo potrebbe essere, e sicuramente anche i lavori di Tempa Rossa avranno un indubbio stop, così come Eni ha paventato, ha sospeso le estrazioni ieri a questo centro oli di Viggiano di cui parlavamo prima. Addirittura tra le ipotesi ci sarebbe, si prospetterebbe anche un clamoroso blocco della produzione che avrebbe un impatto non da poco, ecco. Grazie ad Eugenio Curia, giornalista del Quotidiano del Sud, edizione della Basilicata, il traffico platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.